Non portate bandiere, non intonate slogan, siate sobri e niente fiori, così come sarebbe piaciuto a Carlo. Ore 10, questa mattina, una frugale cerimonia per il giovane ucciso, sparato da un carabiniere di 20 anni di leva, mandato in prima linea. In piazza Rimonda, al posto del cadavere, ci sono fiori, lumini, un pacchetto di sigarette e tanti oggetti, magliette e bandiere. Queste persone, amici di Carlo, hanno fatto un cordone che delimita l'entrata. Se non entrerà nel cimitero è perché è previsto che siano stati familiari ad accompagnare la bara con dentro Carlo dentro il cimitero, mentre poi si dovrebbero svolgere degli interventi. Un clima di grande silenzio, tutti sono gli occhi rivolti verso questa grande porta carcellata verde scuro che si è aperta quando è arrivata la macchina. Sono, come dicevo prima, tante persone diverse, anche oltre agli amici di Carlo,